Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica. DJ Telesforo. Sì, mi sento a casa oggi, anche se non sono a casa mia, mi sento a casa perché quando si arriva in un ambiente così confortevole, così luminoso, con un pianoforte a coda, tutto attrezzato, con tutti i microfoni pronto per la registrazione, strumenti etnici dappertutto, tecnologia, bei mobili e soprattutto un grande musicista, mi sento a casa e sono a casa di Sergio Camariere, che ringrazio per l'ospitalità, visto che poi da te sarò tuo ospite per 2 giorni. Sì, sei molto carino a venirmi a trovare, tra l'altro in questi giorni stiamo registrando il nuovo album e quindi hai trovato tutto acchittato. Infatti no, ma la cosa bella è che mi hai detto che quando non registri fai sparire gli strumenti, a parte il pianoforte a coda che ti serve per studiare e continuare a elaborare composizioni, e la casa diventa, torna normale. Invece in questo momento è assettata per fare registrazioni. A che ora fai le registrazioni? No, normalmente partiamo nel pomeriggio e finiamo dopo cena. Le orchestre, gli archi, così si va negli studi più grandi, però gli overdub con tutti gli strumenti, i singoli, li facciamo qui da me. Nel nuovo album per esempio ci sono musicisti che adoro come Antonello Salis, Roberto Taufik, Fabrizio Bosso, Alfredo Paxao e tanti altri amici, Marcello Surace, e poi la mia famiglia, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano, Bruno Marcozzi, e ci stiamo stringendo per chiudere questo nuovo episodio della mia vita. Hai detto una cosa bellissima, c'è la mia famiglia, riferendoti ai tuoi musicisti preferiti che poi sono anche miei carissimi amici. Questa è una cosa molto bella, il fatto di riuscire sempre a creare un team di lavoro di persone che stanno bene insieme nella musica ma anche fuori dallo studio di registrazione o dal palcoscenico. È una prerogativa di Sergio questa. Eh sì, il rapporto umano è cresciuto insieme al rapporto con la musica e quindi dal vivo certi miei concerti si trasformano perché nasce un interplay alimentato da questa voglia, da questa amicizia, da questa passione. Anche tu come me vieni da una città di provincia, io arrivo da Foggia, tu arrivi da Crotone, Calabria, abbiamo più o meno la stessa età, forse tu hai un paio di anni in più di me, però l'entusiasmo per la musica continua a essere la nostra fonte di ispirazione e la nostra energia vitale. Che cosa avresti fatto da grande senza la musica? Beh, devo confessarti che da bambino ero un po' chiaroveggente. Io sognavo di fare questo mestiere, di fare la musica, di fare non solo le canzoni, ma anche la musica per il cinema, per il teatro, che è diventata la mia vita. E quindi sei soddisfatto insomma di tutto quello che hai fatto? Noi ci conosciamo da tantissimi anni e in quel periodo, nei primi anni 80, tu imperversavi a destra e a sinistra a Roma e in giro per il paese proponendo musica in locali di varia natura. Poi improvvisamente un giorno, fortunatamente per te perché fare quel tipo di lavoro è molto faticoso, è arrivato il passaggio dal fare il musicista da club a calcare i grandi palcoscenici con un bel contratto discografico e tutto quello che è venuto dopo. E credo che la cosa che abbia segnato comunque anche la tua musica sia la passione per lo swing. Allora sai che cosa voglio fare, Sergio? Voglio dedicarti un cavallo di battaglia dello swing di tutti i tempi, che è Sing Sing Sing, brano scritto da Louis Prima tantissimi anni fa, che è stata anche la sigla di Duke Ellington, e ne abbiamo parlato con Renzo Arbore durante la prima settimana di programmazione del nostro Mizio Renzo. Te lo saluto Renzo, e al nostro soundcheck. Qui questa versione vede l'interpretazione di una formidabile cantante oscurata in quel periodo dalla grandissima Ella Fitzgerald. Questa è una donna bianca molto carina, si chiamava Anita O'Day, al soundcheck di Radio 24. Ma la passione per lo swing a Crotone come l'hai coltivata quando eri bambino? Ero giovanissimo e lì al Teatro Apollo, dove mi esibivo da piccolo in un coro di voci bianche, arrivò alla fine degli anni 70 Lino Patruno con una grossa band. C'era Marcello Rosa, c'era Gianni San Giust, Carletto Loffredo, c'erano tutti questi grandi musicisti della vecchia scuola romana. E la mia fidanzata di allora chiese a Lino se avrei avuto la possibilità di potermi esibire con loro, e così suonai il mio primo blues in fa maggiore con questa big band. E sono stato un iniziato. Te lo ricordi? No, fammi sentire, vai. Dai, che con il tuo blues andiamo in pubblicità, vai. Preferisco ascoltare il tuo pianoforte. Finisci il chorus e andiamo in pubblicità. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Just the Two of Us, un successo di Bill Withers qui al Soundcheck di Radio 24, quando ci stiamo intrattenendo piacevolmente con Sergio Cammariere, che ci ospita oggi e anche domani in questa bellissima sala studio dove vive, suona, lavora, mangia e fa tutto il resto, perché praticamente la tua vita è in simbiosi con questo strumento meraviglioso che è il pianoforte. Quando hai iniziato a studiare pianoforte e quanto ti dedichi quotidianamente al pianoforte? Ti parlavo prima del coro di voci bianche. Io, insomma, quando avevo 7-8 anni ho cominciato a studiare il piano grazie al mio maestro Pigmalione, il maestro Campagna di Crotone, e andai a Castrocaro Terme nel 71, avevo 11 anni. E quindi questo pianoforte, questa musica mi è entrata, insomma, fin da piccolo. Non ho finito gli studi al conservatorio perché mi piaceva proprio creare l'indipendenza, essere un uomo libero, e quindi attraverso il mio lavoro e quello che avevo capito con il mio orecchio, che captavo un po' tutte le musiche che ascoltavo, suonavo a Firenze, suonavo a Milano, suonavo ovunque. E quindi mi iscrissi all'università a Firenze, ma era un pretesto per andare un po', allontanarmi dalla mia città natia e dedicarmi completamente alla musica. Lo sai che più o meno è simile alla mia storia. Io anche mi iscrissi a Roma economia e commercio, soltanto che di notte andavo per jazz club e facevo molto tardi. Allora una mattina, andando alla città universitaria per frequentare le lezioni di statistica, economia e commercio, pensa un po' che diavolo di facoltà avevo scelto, proprio una cosa sbagliata per un musicista. Feci un frontale con la 126 che mi prestò mia madre. Allora chiamai mamma e le dissi: mamma, ho distrutto la macchina, ho fatto un incidente e credo che abbandonerò l'università. Ma mia madre disse: ma perché? Perché guarda, ho capito che l'università è troppo pericolosa per un musicista di jazz. Grande mamma, ma anche i miei non hanno ostacolato il mio percorso mai. sebbene io venissi da una famiglia, diciamo, medio borghese, mio padre era un coltivatore diretto, con quei concetti, quei principi, quei valori, insomma, cristiani, di famiglia appunto del sud, e comunque, ecco, mi hanno lasciato incondizionato, cioè libero di poter agire, poter fare, dedicarmi completamente a questo mio sogno. Ecco, ti sei dedicato completamente alla musica e quello che hai fatto lo hai fatto bene, lo hai fatto con successo. Adesso hai registrato diversi album, sei qui a casa, studio, pronto per dare il via a questa nuova produzione che verrà fuori, credo, fra qualche mese, perché so che te sei molto meticoloso nel lavoro, ci metti molto tempo per partorire poi alla fine il progetto. Allora, siccome so che sei anche un appassionato di world music, e questa casa lo dimostra, perché vedo strumenti, che strumento è quello? Quello è un oud, che è un liuto arabo, dietro c'è un gimbri, un jajush, e ci sono poi vari elementi, per esempio roba che ho raccolto nei miei viaggi in Africa. Ecco, allora è proprio di Africa che ti voglio parlare, perché il protagonista del prossimo brano è Richard Bonat, che tu conosci benissimo, bassista, cantante, compositore, arrangiatore, fa di tutto e di più, ha girato il mondo, adesso vive a New York, e questo è dal suo ultimissimo album, ce lo godiamo insieme, il sound unico, inimitabile di Richard Bonat qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Siete sempre collegati con Casa Camariere, qui è per il soundcheck di Radio 24 in compagnia di Sergio Camariere che ci ospita, sono contentissimo, poi dopo, appena finiamo il programma, ci facciamo una jam session. Quante ne abbiamo fatte di jam session a casa tua, che ne so, a partire dagli anni 80, quando avevi casa, quella casa piccolina sulla Flaminia? Quella casa era un monolocale dove c'era il piano a coda e la possibilità di mettere tanti strumenti. Passarono da quella casa tanti musicisti, ricordo Chico Mawatu, questo senegalese, congolese, Tony Esposito, Marco Rinalduzzi, Gesù Telesforo, Stefano Di Battista, Max Bottini. E lì si suonava tutti i giorni e avevo un quattro piste, e quindi ci siamo divertiti a registrare. E hai archiviato tutto, perché tutte queste registrazioni fatte allora sono lì. Adesso io ho una pennetta USB, scaricherò tutto il materiale e naturalmente andrò ad eliminare tutto dall'hard disk, perché non prima l'ascolto, però, perché sicuramente qualcosa di interessante lo abbiamo anche fatto in quel periodo. Bene, stiamo parlando dei primi anni 80 volevo raccontare un attimo il tuo approdo alla discografia, perché te hai lavorato tanto come musicista per molte produzioni discografiche prima di metabolizzare le tue canzoni, di scriverle e di trovare anche un partner ideale per i tuoi testi. Verso la fine degli anni Ottanta avevo già scritto una serie di canzoni, una l'hai cantata anche tu così solare nel tuo album, e poi in effetti il mio primo disco è una colonna sonora per un film di Pino Quartullo, quando eravamo repressi, era il 90, 91, e poi ci fu l'incontro con Micocci, con Vincenzo Micocci e la Hit Dischi, la prima casa discografica indipendente che si occupava dei cantautori, e questo signor Micocci mi ha insegnato come far rotolare le parole, come farle capire, come scandire bene le sillabe, mi fece incontrare Roberto Kunstler, con il quale ancora tutt'oggi, dopo 20 anni, scriviamo canzoni insieme, E il primo disco del 93, I ricordi alle persone con Roberto, passò inosservato. Poi ci sono stati altri dischi, altre colonne sonore, così fin quando è arrivato un contratto con la EMI dopo il premio Tenco. Hai detto una cosa che mi fa proprio da ponte con il brano che ho scelto dal tuo ormai vasto repertorio. Cantare in italiano è musica brasiliana. Ecco, questo è, ho colto queste due cose perché a me piace moltissimo una canzone che tu hai recuperato dal repertorio di Ivan Lins, un meraviglioso compositore brasiliano, ormai neanche più contemporaneo, posso dire, perché appartiene a quella fascia di compositori che vanno da dopo Antonio Carlos Jobim a oggi. Quindi, insomma, è un compositore che avrà una sessantina di anni adesso, no? Adesso non è più carioca, nel senso, vive a Lisbona. Alfredo Paxao, che lo conosce bene, mi ha parlato dei suoi ultimi percorsi, e lui tra l'altro aveva apprezzato molto questa mia versione di The Boys Dos Temporais. Questo brano tra l'altro suona Arthur Maia, bassista brasiliano che aveva già suonato con Ivan Lins in un brano storico, Da Chilo Che Eu Sei. E quindi hai scelto Canzone di Priamo. La canzone di Priamo, Sergio Cammarieri al soundcheck di Radio 24. E vide laghi e poi montagne e fiumi da inseguire, che parlavano di un tempo che era da venire, di un solo Dio che univa i cuori in tutto l'universo, amore senza fine e senza tempo. La canzone di Priamo, Sergio Cammarieri al soundcheck di Radio 24 per chiudere questo appuntamento del nostro programma, e io ti ringrazio per l'ospitalità, sarò qui con te anche domani e noi adesso ascolteremo tanta musica, a partire dal prossimo brano che mettiamo in onda, che ha come protagonista Sergio, uno dei nostri beniamini. Anche per salutarlo, ci ha lasciati qualche mese fa e vi sto parlando di George Duke, che qui incontriamo in questa sua splendida versione recente di In a Mellow Tone, successo di Duke Ellington. Ottima scelta, Giorgio, è grande. Grazie Sergio, e adesso tu tira fuori un po' di discografia che hai raccolto in giro. Tanto per rimani il mondo. Qua. No, resto qua, e chi si muove? Yes. Hai preparato la cameretta blu, io sono a posto. Perfetto, a domani, ciao. Questo è il soundcheck di Radio 24, grazie a Sergio Cammarieri. Grazie a voi. Check. Il suono della musica.